102. Spaghetti col sugo di seppie. Eccovi le norme approssimative per fare questa minestra che basterà per 5 persone. Prendete 3 seppie di media grandezza che potranno pesare in complesso dai 650 ai 700 grammi. Spellatele e nettatele dall'osso, dall'apparato della bocca, dagli occhi, dal tubo digerente e dall'inchiostro, che alcuni lasciano, ma che io escludo perché mi sembra faccia bruttura. Fate un battuto con 100 grammi di midolla di pane, un buon pizzico di prezzemolo e uno spicchio d'aglio. Unitevi i tentacoli, che sono 2 per ogni seppia, tritati ben fini, conditelo con olio, sale e pepe a buona misura, e con questo riempite il sacco delle seppie cuocendone la bocca. Tritate una cipolla di mediocre grandezza, strizzatela per toglierne la credine e mettetela al fuoco con olio, non molto però, e quando avrà preso colore, gettateci le seppie e conditele con sale e pepe. Aspettate che coloriscano per tirarle a cottura a fuoco lento con molto sugo di pomodoro o conserva, aggiungendo acqua a poco per volta. Fatele bollir 3 ore, ma procurate che vi resti il sugo necessario per condire con esso e con parmigiano 500 grammi di spaghetti, i quali sentirete che riescono piacevoli al gusto. Le seppie, che in questo modo rimangono tenere e perciò di non difficile digestione, servitele dopo come piatto di pesce in umido.